dove sei. Torna, torna a casa, sul treno delle sei. Operai ed impiegati, commessi di laboratori, negli occhi di qualcuno il sole, in altre mani un po' d'amore. Allora cosa sei? Ferma i tuoi pensieri sul treno delle sei, afferra il tuo futuro sul treno delle sei. Ruote di metallo e freddo, mentre fuori il giorno muore, la luce che si accende e spegne, dà il senso della vita che fai. E allora cosa sei? Strade del tuo quartiere, camminando piano, c'è tempo per pensare, e vorresti un po' morire, ma non hai tempo per morire, e vorresti piangere forte, ma pensi a tuo padre e tua madre. Allora cosa sei? Torna nei tuoi panni, in quello che non senti, ma già fai. Sapienza non ne hai e ne vendi, amore poi ne chiedi e non ne dai. Interpreta il tuo ruolo d'attore consumato, quale sei? Il sole non l'hai visto mai, ma ne racconti i pregi e le virtù. Stimato, in fondo un buon prestigio tu ce l'hai, ma cosa te ne fai? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pensando a quel che sei, bevi, fumi e sogni, e dimentichi che cosa fai. Accorgi di non essere nato, ma di essere stato fabbricato. E il vuoto che ti senti dentro nasce solo dal tuo orgoglio. Allora cosa sei? Niente sul treno delle sei, non ci capisci niente, ma in fondo non te ne importa. Lascia che tutto vada come sempre andato e andrà. Tranquillità e superbia pagano la tua tristezza. E allora cosa sei? Io sono un omettino, come ce ne son tanti al mondo ormai. Stufo della vita, ma servo degli esempi che mi dà. Mi nutro di glucidi, lipidi e proteine, e niente più.